cioè la sera quando guardo la televisione, io c'ho una panchina di fronte il televisore e mi siedo. Qua, fra me e lui, non sono sicuramente io, al massimo sarà lui. Se uno che è squalificato per omessa denuncia viene a parlare di moralità a me, significa che è finito il mondo. Ibrahimovic non lo sento, io non l'ho chiamato qualche volta e non mi ha risposto, sento tutti gli altri ma non Ibra. Tutti convocati di Carlo Genta. Siamo contenti per questa vittoria, per il passaggio del turno e di essere anche arrivati primi nel nostro girone. Siamo contenti che ritorni Antonio a Palermo. Contenti perché era una partita difficile, sapevamo l'importanza di questa gara, eravamo consapevoli della forza di questa squadra. E aver fatto una partita del genere e averla vinta ci riempie di orgoglio. Ma non so, io lo so di averla toccata perché l'ho toccata, però quello non so quanto possa incidere sul gol. So solo che se magari non avrei fatto quel movimento di passarli lì davanti avrebbe rinviato. Non c'è dubbio. Avrebbe rinviato fuori, no? Dai, scegline una, Leo, di avversario. Il Galatasaray con Felipe Melo. Real Madrid, Bernabéu non ho mai giocato. Vabbè, sono tutti belli da giocare, credo. Io prenderei forse il Celtic. Anch'io. Ciao a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Juventus Day dunque, rovesciate pure attraverso questi microfoni voi juventini tutta la vostra gioia. Ma andiamo avanti, peraltro due delle nostre. Una zoppicando e a forza di iniezioni di fiducia del proprietario, l'altra invece sul cocchio dorato prima della classe, si mangia anche il biscotto e pure il pasticcere. Dunque, tutti convocati, 800 24 00 24, numero verde, giorno dei tifosi. Apriamo con uno illustre, olimpionico della nostra scherma e ormai nostro amico Diego Confalonieri, che avevamo sentito dopo la partita di andata della Juventus con lo Shakhtar, quando le ombre erano ancora lunghe. Ciao Diego. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. E adesso invece? Adesso la Juve è tornata dove merita di essere, nei primi 16 d'Europa, ha dimostrato nelle ultime due partite con Chelsea e Shakhtar di potersi giocare con tutti. Dove merita di E essere? assolutamente sì. Sì, perché ha dimostrato di essere una squadra europea, una squadra che vince 3-0 in casa con i campioni d'Europa, una squadra che va a vincere fuori casa 1-0 con una delle squadre più in forma della Champions, quindi credo che sia un merito quello di essere passati come primi del girone. Su questo non c'è dubbio, con pieno merito, perché la Juventus dopo quel pareggio in Danimarca ha asfaltato i campioni d'Europa, mai era successo che uscissero al primo giro, ed è andata a vincere a Donetsk una partita strana ma seria, perché è chiaro che lo Shakhtar aveva la certezza della qualificazione in tasca, è chiaro che passare come primo o come secondo fa differenza, è chiaro anche che avevano i biglietti delle vacanze nelle valigie. Però la Juventus ha giocato un grande primo tempo, ha giocato un grande primo tempo di contenimento, di attenzione, e poi ha colpito quando doveva colpire. Giovinco rivendica il gol, non è suo, aspettiamo ancora il primo gol decisivo di questo giocatore. Io sono uno dei tanti che lo aspetta, sono uno dei tanti che lo difende, perché secondo me lui potrebbe essere davvero in futuro un giocatore importante per la Juve. Credo che gli serva il gol decisivo, il gol a 3 punti, che quest'anno non è mai arrivato. Comunque, se la Juve ha dimostrato che ha fatto una partita davvero intelligente, tatticamente perfetta, contro una squadra che non aveva neanche in testa il biscotto. Quindi usciamo da questo dubbio. Ieri sera lo Shakhtar ha giocato la sua partita, molto probabilmente non ha giocato con il coltello fra i denti come ha fatto la Juve col Chelsea, perché era già qualificata, ma ha corso, ha fatto una bella partita, la Juve ha vinto meritatamente. Senti, domenica Conte esce dal gabbiotto, dal collegio, dalla punizione, dal castigo. Alla fine si ritrova una squadra prima in classifica in campionato e che ha passato in carrozza il turno in Champions League. Tutto sommato non ha pagato tutto sto granché. Beh, insomma, diciamo che la Juve forse ha pagato relativamente, lui ha pagato forse più di quello che, sì, che ha commesso più della Juve. Rispetto a quello che hanno pagato. No, no, la Juve... stare più, ha pagato più della Juventus perché si sarà rosicchiato le unghie fino a farle sanguinare, dai. La Juve ha pagato sicuramente, però insomma l'importante secondo me è il lavoro che si fa in settimana, questo è un 80% buono del lavoro che Conte è riuscito a fare in questi mesi. Poi è chiaro che in campo uno come Conte si sente, infatti io penso che col Palermo la Juve farà una gran partita proprio per la voglia di Conte che trasmetterà ai giocatori del suo rientro, no? Lui vorrà dimostrare di essere l'uomo in più di questa Juve come l'anno scorso ha dimostrato di essere. Allenatore, arbitro De Marco di Chiavari. Ma guarda, io non voglio parlare di arbitri perché poi sembra sempre, insomma, anche oggi un sacco di amici mi hanno scritto il gol in fuorigioco, il girone, eh? Col solito gol in fuorigioco, nessuno mai dice che c'è un rigore grosso. Europotenza Juventina. Anche ieri Lucescu, insomma, ha fatto un'uscita non proprio felice, voglio dire, perché una volta che perdi in casa 1-0 con un rigore che non viene assegnato a lui per 20 minuti, attaccarsi al fuorigioco di rientro l'Ixiner dicendo che la Juve è una potenza europea, insomma, mi sembra un po' di sentire qualche squadra italiana che si lamenta sempre per gli errori arbitrali a favore della Juve. Non a caso è passato da queste parti, caro Diego, ti abbraccio, sì. Ti abbraccio, sì. Grazie. Ciao, ragazzi, Diego. Buon pomeriggio. Ciao, Lucescu. Ciao. No, non dico niente, dico che si poteva dare, era, per me era offside, ho visto, era offside, rientrato, poi la partita di andata è stato quel penalty su William, molto chiaro, non è dato, allora in questa situazione noi dobbiamo aspettare un po' di anni fino a quando saremo rispettati come le grandi squadre europee. Tutti convocati. Mi domando se gli juventini stiano ancora dormendo o sognando. Siete tutti convocati 800 24 00 24, naturalmente juventini e non, perché sennò non ci divertiamo. Poi parliamo anche di Balotelli Gioconda, come ha detto Raiola questo più tardi. Oggi ho visto una pagina del Mirror che mi ha fatto, con Balotelli con i capelli lunghi e travestito da Gioconda, che mi ha fatto passare ogni tipo di libido, se ce l'avessi ancora. 800 24 00 24, numero verde. Parleremo anche di una cosa incomprensibile che ha detto Zeman su De Rossi, che non si è ancora integrato nella Roma. Questa mi sembra una cosa allucinante, perché un giocatore come De Rossi può integrarsi in qualunque squadra al mondo. Eclettico, versatile, un campionissimo come Daniele De Rossi, non si è ancora integrato nella Roma di Zeman, e questa cosa mi puzza non poco. 800 24 00 24, il numero verde, messaggi 349 238 6666. Con gli insulti a sottoscritto potete anche dare di più, secondo me, perché siete banali. Andrea da Milano. Buongiorno, ciao Carlo. Gli insulti per te sono improponibili, sei veramente in gamba. Ma no, senti, ci stanno, mi divertono. Senti, io l'unica cosa mi che becco del dire... pagliaccio, mi becco del pagliaccio, mi becco, beh, un sacco di altre cose che non si possono dire, ma mi diverto. Ma no, dai, cioè, dopo Garanzini hanno fatto un acquisto clamoroso con te. Comunque stare. Basta la piaggeria, dai, finiamola qua. Lascia stare. Senti, solo una cosa, al volissimo, io non capisco tutta questa enfasi nei confronti dello Shakhtar, cioè, ma porco cane, adesso, ma non mi sembrava sto squadrone pazzesco ieri sera, erano, come hai detto tu ieri, già con l'infradito pronti. Sì, per ieri sera mi è sembrato così, in altre occasioni mi aveva fatto una grande impressione lo Shakhtar, ti devo dire la verità, ieri sera no, meno, non so se... Sai, anche affrontare la partita con la certezza di avere la qualificazione già in tasca è una cosa differente, anche se tra primo e secondo posto cambia qualcosa, però ho visto onestamente la peggior versione dello Shakhtar di questo girone. Ma questa non è colpa della Juventus, però. Sì, questo è anche vero. Questa non è colpa della Juventus, che comunque ha giocato una grande partita, una partita... di grande attenzione tattica, un'attenzione tattica che qualche volta aveva smarrito in campionato. Mi sembra quasi di vedere un piano preciso, poi chiederò conferma ad altri nostri ospiti, c'è una Juventus che va a strappi un po' in campionato, a strappi e spinte, proprio per costruirsi con l'intenzione di costruirsi un vestito europeo all'altezza della situazione, e mi sembra che questo vestito, insomma, se lo sia costruito piallando il Chelsea e vincendo ieri sera e conquistandosi un primo posto nel girone ampiamente meritato alla fine. Poi abbiamo sentito in apertura Alessio Felice che lascia la panchina ad Antonio Conte, che sfonda il vetro, finalmente potrà smettere di fare l'allenatore di rugby e quindi rituffarsi a calpestare l'erba del bordo campo. Abbiamo sentito Giovinco che rivendica la paternità di quel gol che di fatto non è suo, lui che ha abbonato ai gol, al terzo gol, cioè a quei gol che in fondo contano poco, ma ieri sera ha giocato una buona partita, anche se a mio parere certo non è stato il migliore della Juventus, perché quello che mi è piaciuto di più di tutti, non so se siete d'accordo, è stato Vidal insieme a Vucinic, che è un vecchio pallino, 800240024, ditemi anche qui la vostra. Abbiamo sentito Bonucci che è pazzo e vuole il Real Madrid. Abbiamo sentito Lichtsteiner che invece è svizzero e vorrebbe il Celtic. Raffaele da Milano, 800240024, siete tutti convocati ogni giorno. Dunque, pronto? Eccoci. Salve, signor Carlo Genta. Salve, signor Raffaele. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta una cosa, io... Non tifo per la Juventus, tanto per la cronaca. Tifo per la Juventus, sono tifoso juventino. Io e no. La volevo, insomma, ribaltare un po', perché io vi ho ascoltato e vi ascolto sempre. E, insomma, lei mi sembrava un po' scettico. Perché non diciamo finalmente che questo è uno squadrone, che questa è una signora squadra, e lo facciamo sentire in tutta Italia che questo è uno squadrone. Signor Carlo Genta, si liberi un po'. Uno squadrone, io non sono juventino, Raffaele, che ce devo dire, che te devo dire, non sono juventino, ma la Juventus è una signora squadra, uno squadrone, cosa intendiamo per squadrone? Il Barcellona è uno squadrone, il Real Madrid è uno squadrone. Anche chi è finito fuori in maniera pazzesca e vergognosa come il Manchester City, sulla carta è uno squadrone. La Juventus è una grande squadra a cui manca ancora qualcosa, a mio parere, per diventare quella che lei definisce uno squadrone. Adesso arrivano 25 milioni, 26 milioni tutto compreso, che potranno essere investiti in qualcosa di più serio che non sia Bentner. Ovviamente bisogna fare i conti sui giocatori che hanno già giocato in Champions League, eccetera eccetera, ma la Juventus probabilmente, per essere uno squadrone come lei dice, manca ancora qualcosina. Marco su Twitter proprio non riesci a celare il rosicamento, prendi un Malox prima della trasmissione, perché dovrei rosicare? Marco, chiamami, 800240024, invece iscrivi, resta collegato con Twitter, ma chiamami così almeno mi spieghi perché dovrei rosicchiare o prendere un Malox prima della trasmissione. Agatino Catania, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo inizialmente dire, contraddire un pochettino lei, sì, per quanto riguarda la prestazione dello Shakhtar. Non è che abbia deluso, abbia giocato male o abbia dimostrato una flessione. Lo Shakhtar ha giocato bene e anche è stato anche pericoloso. Insomma, e lei pensa visto, che ha giocato no, un po' meglio? Guardi, l'ho visto giocare meglio in altre occasioni. Per esempio, sì, a Londra con il però, Chelsea. Ma anche ieri non ha scherzato, dico. Ha giocato ad alti livelli normale. E non so quante altre squadre ieri sera italiane avrebbero lasciato quello stadio senza subire gol. Comunque volevo dire un'altra cosa che riguarda la vicenda Snyder. La vicenda non Snyder convocato. Mi sembra così penosa che non può disgiungersi dallo spessore di quella dirigenza che è quella dell'Inter, e a questo punto io ribadisco, ma quel Moratti aveva diritto di vincere aveva diritto di vincere quando ha vinto spianando tutta la concorrenza, aveva diritto di vincere prima in quando che senso? Sbagliava cosa e spendeva miliardi e non vinceva. Mi perdoni, e cosa avrà vuol diritto dire? Di vincere ancora? Ma cosa vuol dire aver diritto di vincere? Uno vince se è più bravo e se lo merita. Lui pretendeva di vincere e addebitava le sue sconfitte, i suoi fallimenti. Oggi a Giraudo. Aspetti un attimo, c'è stata una parentesi lontana in cui era così, c'è stata una parentesi in cui l'Inter ha vinto in un anno tutto quello che poteva vincere. E cosa vuol dire aver diritto di vincere? Vinci se sei più bravo. È chiaro poi che gli scudetti a tavolino io non li conto neanche, però vinci se sei più bravo, e ci sono stati anni in cui l'Inter, in particolare l'anno del triplete, in cui l'Inter era la squadra più forte d'Europa, l'ho dimostrato a mio parere, o comunque ha meritato di vincere, ha avuto il diritto di vincere certamente. Quanto allo Shakhtar, ieri sera ha giocato una partita più che normale, non ha certo giocato la partita della vita, secondo me. Anzi, me l'aspettavo un po' più aggressivo nella difesa di un primo posto, che comunque conta molto perché le avversarie cambiano. Valencia, Porto, Arsenal, Celtic, Galatasaray o chi volete non valgono certo Barça, United, Bar Monaco, Borussia, PSG, quelli che potrebbe prendersi il Milan invece. Fabio Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io volevo intervenire su due cose molto brevemente. La prima, non capisco perché si dà sempre comunque enfasi a tutto quello che succede a favore della Juve e contro, comunque si sottace, non si dice niente su quello che invece magari è a favore, anche in modo netto, come è successo ieri sera con il rigore. Perché chi lo sottace? Un'altra squadra, Chi lo sottace? Tutti quelli che vogliono dare contro alla Juve. Mi pare che stia scritto ovunque. Mi pare come quello, che ne so, così come mi viene. No, dice così come mi viene, però non lo so, se lei dice i suoi amici del bar che... Io parlo leggendo, mi sembra che stia scritto grosso modo ovunque, su tutti i giornali normali, seri, che la Juventus, insomma, alla Juventus mancava un rigore e poi ha segnato un gol nel modo che abbiamo visto, quindi, ma sono cose che vanno e vengono, no? Quindi non mi sembra che si sottaccia nulla, Fabio. Sì, ma poteva succedere di tutto. La sensazione anche ieri sera, che non so, alla televisione ho visto la partita su Mediaset, e quello che succede normalmente quando vedo la partita lì piuttosto che da altre parti è un commento abbastanza di sufficienza, ci vedo. Fosse stato il Milan, sarebbe stata un'altra cosa. Il fatto è successo a Juve, sì, va bene, insomma, la sensazione è quella che siccome viene da 90, non lo so, io l'ho vista, guardi, io l'ho vista su Sky, ma poi soprattutto io le partite le guardo, non le ascolto, quindi quello che dicono mi lascia, non dico indifferente, però guardo la partita e cerco di valutarla con i miei occhi e con la mia testa. Poi quello che dicono i commentatori mi interessa in maniera relativa, cioè un contesto, un contorno, una cornice, come è giusto che sia, che può essere di qualità migliore o peggiore, può piacerci o no, però non mi sembra quello il quadro, insomma. 800240024, tutti convocati, a dopo la borsa. Tu sei veramente bravissimo, complimenti. Tutti convocati. Beh, siamo al top qui, siamo al top. Voglio sentire la vostra voce, non solo quella di Cruciani, che è mio amico. 800240024. Voi che scrivete via SMS siete abbastanza pallosi. 349-238-6666. Potete fare meglio e dare di più. Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Tranquillizzaci sulle condizioni del piccolo re. Ma sì, ieri tutto il mondo col fiato sospeso. Però quando io ho visto le immagini, mi sembra c'era quel ginocchio molto rosso. Sì. E di solito se ti rompi qualcosa fuori non c'è niente. Invece qui cioè, si vedeva che aveva preso un colpo. E di quello pare che si tratti, insomma. Ha preso un colpo, ha preso una botta. Una botta. E, sì, insomma, era... Lesa maestà e basta, dai. Esatto, sì, lesa maestà. Ma io, guarda, ieri non ho capito... Perché è bello che qua un po' gli spagnoli si sono un po' arrabbiati. Dice, no, perché l'hai fatto giocare? E dicevano a Villanova, ah, non doveva farlo giocare. No, invece secondo me ha sbagliato, doveva farlo giocare tutta la partita. Perché Messi è così, Messi vuole giocare. Cioè, si diverte, gli piace. Non è che ha bisogno di riposare. No, ma certo... E quindi vabbè, comunque insomma, passata la paura, adesso vediamo, ritornerà questa caccia al record, sì. L'ennesimo e niente. Siamo ovviamente raggiungerà, supererà, sì, appunto, e asfalterà, o si fa male, ma si fa male, male oppure lo raggiunge, perché cioè, a parte ieri sera che poi ha giocato mezz'ora, nelle ultime... 5 partite aveva fatto sempre una doppietta. Vedi tu. Sì, c'è quel pazzo di Bonucci che ha detto che vuole il Real Madrid. Perché non ha mai giocato il Bernabéu. Ma ha ragione, che cosa? Ma sei impazzito. Sì, questa Juve, dopo che hai spugnato la Donbass Arena, non deve avere più, non ha paura di niente. No, io sono. Vabbè, se no, cosa c'hanno? Lo Schalke. Possono avere cose migliori. Valencia, Porto, lo stesso Arsenal, il Celtic, il Galatasaray. C'è roba migliore in giro, eh? Sì, sono gli spagnoli che sono messi peggio, soprattutto il Real Madrid c'ha un sorteggio abbastanza incasinato, devo dire, cioè a parte lo Schalke le altre sono complicate. Sì, però intanto gli spagnoli sono le uniche che ne hanno piazzate 4 su 4. Sì, beh, anche i tedeschi 3 su 3 di quelle che ci avevano e noi 2 su 2. Cioè, solo l'Inghilterra che va, anche la Scozia 1 su 1. però vale. No, è solo l'Inghilterra che va male, e, tra l'altro sì, una sola prima, no, 2 a casa. Curioso, a casa il Chelsea con 10 punti, con la Juve come l'anno scorso, a casa il City con 10 punti col Napoli. Perché non sono nemmeno troppo fortunati, perché sono gruppi complicati. Sì, ho capito, hanno preso gruppi complicati, ma il City è ingiustificabile, lasciamelo dire, perché non puoi... No, qua in Spagna poi odiano Mancini, perché secondo gli spagnoli dicono che gioca malissimo, che non ne dico di tutti i colori, io cioè, un po' cerco di tanto di difenderlo così, so, più che altro perché è italiano, poi in realtà sì. Non è che mi interessi molto, però effettivamente questo il girone del City è stato veramente impressionante, cioè perdere... Che l'Ajax faccia 4 punti col City, io l'Ajax l'ho vista con il Real Madrid, è veramente l'Ajax è una squadra sì. Divertente, prova a giocare bene, sì. Cioè, ha dei giovani interessanti, ma veramente dovrebbe essere spazzata via. Ma una squadra. Senti, ma Mourinho chi vuole invece? Vorrebbe la Juventus? Cosa ha detto? No, non ancora niente, deve parlare domani, sempre che gli vada, perché in campionato insomma c'è sempre qualche prurito, quindi non sempre appare, però ma ci vuole, lui dice che ha fatto un po' così il figo come fa lui, dicendo che il Real Madrid secondo era un pericolo per gli altri, però insomma da come gli è andata, cioè, delle 5 squadre che può beccare il Real Madrid l'unica veramente scarsa è lo Schalke, le altre 4 insomma da vedere, non lo so, beh, io a me farebbe molto piacere vedere un bel Real Juve, tra l'altro con la seconda partita a Torino, insomma, interessante. E no, Mourinho quindi ancora non si è pronunciato, però non si è pronunciato, ma si pronuncerà, vedrai. Avremo tempo e comunque sì, complimenti al City, avremo tempo, al Chelsea. Sempre che io non rimanga senza lavoro, come mi augura qualcuno. Ah sì, beh, vabbè, quello è normale, insomma, sono cose che si dicono. Si scrivono via SMS. Vabbè, sì, insomma, o via SMS, via Twitter, insomma, è un po' così. Se rimango diciamo, senza lavoro vengo in Spagna da te, Filippo. Ma sì, quello molto volentieri, almeno bene stai, poi dopo, insomma, a livello economico bisogna vedere. Poi vediamo, ci inventiamo qualcosa, un siringhito sì. A Barcellona, magari mi diverto ma di sì. Più. Grazie, Filippo. Va bene, a voi allora. Ciao. Grazie. Ciao, ciao Filippo Maria Ricci. Per quanto se ne sa, è il ritratto di una gentil donna fiorentina, moglie di un certo Francesco del Giocondo. Sembra che Leonardo dovesse fare anche il ritratto del marito. Quello che è certo è che l'opera non fu mai consegnata. Leonardo, dopo 4 anni di lavorazione, come sempre saltuaria, la tenne definitivamente per sé. Su questo volto e su questo sorriso è stato detto di tutto, che è il ritratto di una donna incinta, persino che è un uomo, o che Leonardo ha rappresentato se stesso in versione femminile, eccetera. Sei bella, sei tonda, sei come la Gioconda. Mi sembra che i proprietari del City non hanno nessuna intenzione di vendere Balotelli e non c'è questa richiesta da parte nostra, quindi va bene così. Quale può essere il prezzo di Balotelli oggi? Come la Gioconda. Non ha prezzo perché non ha un prezzo stabilito, dipende chi se lo compra. Dato che non se lo compra nessuno, non c'è prezzo. In Italia qualcuno se lo può permettere sul breve periodo? No. Ragazzi, a quanto vale la Gioconda? Ovviamente non ha prezzo. Vi invito ad andare a vedere su internet, se avete abbastanza stomaco, la pagina sportiva del Mirror, con Balotelli travestito da Gioconda, con tanto di capelli lunghi, magari passa la libido, qualunque libido, anche a voi come a me. 800240024, che orrore! Ma poi, allora, hai la Gioconda, la esponi, la fai giocare. Se la Gioconda la metti in soffitta, vuol dire che tanto Gioconda non è. Ma questo bisognerebbe chiederlo a Mancini. Alessio, provincia, la foto la trovate sul nostro Twitter, informa maestro Franco Piantanida. Alessio, provincia di Siena, buongiorno. Sì, buongiorno signor Carlo, la saluto. La saluto anch'io. Vorrei fare i complimenti per la trasmissione, lasci perdere ai commenti. Ma sì, ma è un divertisman. È una cosa tra me e rimane sempre il migliore. Gli volevo chiedere della prestazione di Pop Ga ieri. Piaciuto? Non tantissimo. Non gli è piaciuto? Non tantissimo. Però è un ragazzo che potrebbe, insomma, qualità straordinaria. Ieri sera non ha fatto la sua miglior partita, ha sbagliato molte scelte, ma ha sbagliato molti passaggi, ha un po' è stato un po' balotelizzato. Ho detto una parolaccia orrenda, però insomma ha giocato, non è stata la sua partita migliore, mi è piaciuto molto di più altre volte, più incisivo, più preciso, più ha giocato con tempi migliori. Ieri sera ricordo un paio di contropiede in cui ha clamorosamente sbagliato le scelte, però vabbè, è un ragazzino che ha enorme talento. Mi è piaciuto molto quelli dietro, molto bravi, e il solito Vucinic, e vabbè, tant'è. Poi, grazie mille. A lei, Alessio. Comunque sei in pagella a Pogba. Franco, Roma, buongiorno. Sì, buongiorno Franco. Chiamo come tifoso del Catania, sarò molto breve. Sì. Volevo solamente dire una cosa, approfittavo della vostra trasmissione per fare sentire la mia voce. Volevo dire al signor Prandelli, persona di indubbia qualità tecnica e umana, di venire qualche volta a Catania, invece di convocare dei ragazzini semi sconosciuti, di venirsi a vedere le partite del signor Francesco Lodi e del signor Giovanni Marchese. A parte il fatto, parlando poi degli oriundi, che io non sono molto d'accordo. Beh, poi tutti gli altri sono argentini, quindi difficile convocare. Appunto, io non sono molto d'accordo sulle convocazioni, insomma, degli oriundi, però che venisse a vedere gli oriundi che giocano nel Catania e magari ci farebbe un pensierino su. Grazie mille e buona giornata. A lei Franco da Roma, ma credo che Prandelli conosca perfettamente la situazione. Ragazzi, per favore, mi chiamate se avete la possibilità. Luca da Bergamo, che non riesce mai ad intervenire. 800 24 00 24, ma gli ascoltatori che chiamano sono tanti, cosa che mi fa estremo piacere. Dopo il traffico ci risentiamo. Tutti convocati. Riusciamo a prendere per la giacca dopo una riunione mio amico Tony Damascelli. Ciao Tony, mi fa molto piacere. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Senti, mi sembra che di vedere un piano preciso, Juventus a strappi in campionato per concentrarsi su un vestito europeo che adesso sembra davvero bello. Ma sai, prima in campionato, prima in Europa, imbattuta in Europa, ha battuto tutte e tre le avversarie del gruppo. Che cosa si poteva chiedere di più? Difatti c'è stata un'immagine ieri sera del box nel quale erano gli arresti domiciliari. Sì. Antonio Conte, che è un po' la chiave di lettura di questa situazione. Si è fatto il segno della croce tre volte, sì, al di là della sua fede religiosa, sì, perché bisogna riflettere un attimo sulla formazione juventina di questi ultimi due anni. Secondo me è un miracolo nel senso che al di là della fede e religione morisse, il valore aggiunto che ha dato questo allenatore, sì, è incredibile. Ci, sì, sono giocatori che due anni fa non stavano in piedi, sì, ma non fisicamente, non stavano in piedi con la testa. Uno per tutti Bonucci, ma è il primo nome che Bonucci mi viene in mente. Bonucci secondo me è un giocatore sopravvalutato comunque anche con Conte, questa è una mia considerazione, ma Barzagli sta facendo una stagione meravigliosa, e anche giocatori anonimi, chiamiamoli così, danno un contributo. Però attenzione, bisogna crescere. Per crescere ci vogliono i giocatori. Senti, Tony, ci vuole la qualità. Mi sembra però che alla fine gli arresti domiciliari di Conte, come li chiami tu, non abbiano poi influito più di tanto sulla Juventus. Bravi Alessio e Carrera o forse... Beh no, innanzitutto lui ha continuato ad allenare la squadra, quindi a preparare questo certamente le partite. Preparare le partite. In campo, a bordo campo, un allenatore importante, anche se secondo me in alcune partite si potrebbe ripetere questa soluzione, vale a dire l'allenatore segue la partita, non so, nel primo tempo, nella prima mezz'ora dalla tribuna, può dare consigli, suggerimenti, stimoli ai propri collaboratori. Io preferisco Carrera ad Alessio, perché Alessio, così come era in campo, mi sembra un impiegato delle poste, no, perché sennò si offendono, del catasto. E Carrera, anche da giocatore, è un giocatore di maggiore piglio, di maggiore carattere, e quindi dare questo tipo di consiglio dalla tribuna e poi tornare al proprio ruolo in panchina. E così si faceva in Inghilterra, lo faceva Bobby Robson nei tempi in cui il grande Bobby, che purtroppo non c'è più, allenava sia la nazionale inglese che i suoi club. Senti Tony, la più facile o la più difficile delle domande: 26 milioni entrano circa nella cassa della Juventus con questo passaggio, cosa manca ancora? Beh, manca, come si è detto sempre, un attaccante, non dico top che player, sia qualcosa, che sia qualcosa di più generale. Serio di Bednar, insomma. Come? Che sia qualcosa di più serio di Bednar. Sì, non so di chi tu stia parlando. Ma penso che la Juventus abbia bisogno di prendere un giocatore di categoria. Il problema è questo, che a gennaio è difficile trovare, a meno che non ci sia qualcuno che va a conclusione di contratto a giugno e si possa piombare su costui, oppure qualche giocatore in giro per le Asie e i vari continenti non europei che abbia voglia di rientrare nel giro europeo. Qualcuno parla di Drogba. Non bisogna dimenticare che alcuni giocatori come Drogba o Samoa, se non sbaglio, saranno poi impegnati con la Coppa d'Africa. D'Africa, sì, vero. Comunque ha bisogno di un giocatore di qualità, e si può andare a pescare questo giocatore. Però per andare a pescare questo giocatore ci vogliono due condizioni, due premesse. Primo, lo deve scegliere l'allenatore. Secondo, deve dare l'ok il presidente. Terzo, i cosiddetti uomini di mercato devono eseguire l'ordine. Perché se i consigli per gli acquisti partono dai sedicenti operatori di mercato, abbiamo 2, 3, 4, 5 anni di esempi, ma anche questi ultimi due anni abbastanza terrificanti. Sì. Non voglio fare nomi e cognomi, però penso che l'elenco sia abbastanza illuminato. Evidente. Sì. Io voglio chiudere con te, chiudendo, perché muoio dalla voglia di sapere cosa ne pensi del caso Sneijder. Domenica si scornano le inseguitrici della Juventus. E l'Inter ha trasformato questa vicenda, invece di trattarla all'oscuro in guanti di velluto, in una sorta di reality. Sì, no, ma l'Inter ha avuto il colpo di vita di buttare via l'acqua sporca e anche il bambino invece di buttare via solo l'acqua sporca, perché può aver ragione nella vicenda Sneijder, ma è riuscita a gestirla malissimo, perché come al solito parlano in troppi. Ha parlato il dirigente, ha parlato l'allenatore, ha parlato il presidente, secondo il quale ovviamente non è accaduto nulla, è un fatto mediatico. È un fatto mediatico. Non so come mai abbia poi convocato Rinaldo Gelfi abbia poi convocato Schneider, avrebbe fatto meglio a convocare il direttore del Corriere dello Sport, del Corriere della Sera, del Giornale e di altri fogli, essendo un fatto mediatico. Certo. Ma a volte l'aspetto più ridicolo è proprio nelle parole di alcuni dirigenti del calcio italiano. Il caso Schneider è abbastanza illuminante sotto un altro punto di vista, che non ho sentito voci né da parte della federazione, né da parte dell'associazione dei calciatori, né da parte della Lega, soprattutto da parte della federazione che qualche settimana fa aveva detto: capiamo, comprendiamo la rabbia di alcuni dirigenti, nella fattispecie era Moratti, che giustamente si era incazzato dopo un po' di decisioni arbitrali. Stavolta, a parte che poi avete, non riesco a capire che non comprenda la rabbia anche di Pulvirenti o di Lillo Foti, comprenda solo la rabbia di Moratti, va bene. Sì. Ma in questo caso le cosiddette istituzioni sono silenti, per usare un aggettivo che piace a quelli che non frequentano le lingue, sono silenziose, assistono, al massimo faranno un comunicatino, il signor Schneider se la spassa, perché tanto percepisce salario, va... scrive su Twitter, cinguetta pure lui, spiazzando la società sulle convocazioni, non so poi quali siano le ultime decisioni. Non convocato, non appunto, convocato, come aveva detto lui, e Stramaccioni finge di essere lui l'artefice di questa vicenda, dice: le scelte le faccio io, e poi Branca va in televisione e dice magari il contrario di quello che aveva un minuto prima detto l'allenatore. Gli hanno dato anche 10.000 euro di multa per i tweet, per i cinguetti. Sì, sì, beh, sai, 10.000 euro di multa per uno che guadagna 7 milioni o 6 milioni di euro all'anno sono come l'obolo che si dà in chiesa prima di essersi scambiato un segno di pace. Quindi direi che Schneider continua a essere tesserato dall'Inter. Schneider, come hai detto tu, è un fatto mediatico. Caro Tony Damascelli, ti saluto perché devo chiudere il programma e ti ringrazio. Grazie a Tony Damascelli. Giovanni da Trieste e Francesco Drodi, purtroppo non riesco a parlare con voi, ma lo farò senz'altro e con grande piacere domani dalle 2 alle 3. Franco Piantanida in redazione, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Questa luce sparata sembra usando.